24 mattino. 8, 17 minuti, 54 secondi, la mitragliata, signori. Allora, il presidente dell'Assemblea Legislativa del Veneto, Roberto Ciambetti, ha vietato i divanetti bianchi nei locali della residenza del Parlamento Veneto. E perché? Troppo comfort, troppo clima sbracato. Allora, Federico Faggin, Repubblica, pagina 23, una meravigliosa intervista da legge integrale al padre del computer italiano. Ma dovete sapere un aneddoto bellissimo: nel 1980 portò il progetto, il brevetto dello schermo da toccare alle grandi società Nokia e tutte le altre, che gli risero in faccia e dissero: non servirà a niente, bravi geni! Sulla Verità, pagina 23, muoiono più persone, i dati, muoiono più persone per gli incidenti di trattore che per gli incidenti di auto. È un dato che si conferma, ma va ricordato. La cosa più bella, Parigi, la più grande carestia di burro dal 1945 a oggi, e allarme burro, preoccupazione, panico. Il ministro dell'agricoltura dice: tranquilli, non è destinata a durare, ma gli supermercati sono stati presi d'assalto, sono vuoti gli scaffali e, cosa drammatica, sono aumentati i croissant di 10 centesimi. Gomorra paga il pizzo. Giuseppe, questo è per te. Soldi in nero, libero, pagina 27, per girare la serie di Saviano nella villa dei boss. La spiegazione: non sono usciti ai bilanci, ma in qualche modo sono saltati fuori, spiegano i produttori della serie, e raccontano come sono arrivati a noleggiare la villa del boss Francesco Gallo senza saperlo. Ci serviva una casa pacchiana, sfarzosa, di cattivo gusto, e alla fine la trovammo, e vi assicuro che era quella che cercavamo, era la sua. Credo. Un drammatico paradosso, veramente un drammatico. E allora è giunto il momento dei cani e dei gatti. Oscar Giannino, ci sei, gattone? Eccoci, vedo qua una porzione della tua calotta cranica. Oggi eccoci è qua molto importante. Eccoci. Allora, Oscar, ce n'è di a discutere, ma abbiamo subito il personaggio del giorno, che è il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Fra pochi istanti arriva fra noi. 349-238-6666, gli sms 800-24-0024 per chiamare in diretta. E qui da Anna Frank alle pensioni ci sarà ovviamente da discutere, e poi la segreteria 02 30 22 44 92 per i vostri messaggi. Buongiorno al presidente Lotito. Buongiorno a voi. Allora, oggi una grande intervista al Corriere della Sera, grandi discussioni. Io vi dico come la penso e voglio sentire subito Oscar. Secondo me, in questa occasione, la Lazio non dovrebbe essere punita con il criterio della responsabilità oggettiva, che era giusta, perché questa parte esagitata di tifoseria che si è macchiata di questa cosa, poi sappiamo, 2-3 decenni, un gruppo di sconsiderati, folli, razzisti, che hanno fatto questo adesivo, sono in guerra con Lotito da 10 anni, credo. Quindi l'idea che la responsabilità oggettiva venga applicata alla Lazio quando questi tifosi contestano il loro presidente, a me sembra un caso di paradosso. Una battuta di Lotito, voglio sentire subito Oscar su questo. No, guardi, noi abbiamo messo, io da quando sono diventato presidente, ho messo in atto immediatamente tutta una serie di azioni volte a prevenire e a reprimere certi fenomeni. Quando sono arrivato c'erano le curve con esposizioni di striscioni antirazzisti e chiaramente antisemite, c'erano bandiere con la croce uncinata, c'era tutto e di più. E lei ha visto che io poi, adesso che vivo sotto scorta, sono stati condannati, sono stati da quanto tempo va avanti? Io sono 13 anni e vado avanti con, guardi, abbiamo in questo momento sicuramente c'è stato già un cambiamento, perché anche le stesse forze dell'ordine hanno riconosciuto che c'è stato un forte miglioramento. Ultimamente lei ha visto la stessa curva prima della partita di mercoledì a Nizza, di giovedì a Nizza, ha fatto un comunicato dove diceva che non era un appello della società né della UEFA, ma era un ordine: non devono fare burrazzisti, non devono fare questo. Sono andati il giorno della partita a deporre dei fiori nel luogo dove è successo l'eccidio dell'ISIS. Insomma, diciamo che la parte pensante della curva sicuramente non è su quella linea. Purtroppo, come in tutte le comunità, ci sono, nel caso della Lazio, ci sono centinaia di migliaia di persone, ci sono anche le persone, soprattutto i giovani, che ecco, parliamo di persone di 13 anni che non hanno secondo me neanche la contezza di quello che fanno, perché purtroppo la Lazio ha messo in campo tutta una serie di azioni nelle scuole per educare i giovani rispetto alla cultura, agli ideali dello sport, e sono sicuramente seccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale. Immaginate che nelle Olimpiadi, quando c'erano le Olimpiadi, si fermavano le guerre proprio perché stavano al di sopra di tutto, e queste persone fanno questi gesti perché non hanno più, secondo me, l'aspetto valoriale. La fermo solo un secondo, perché poi lei annuncia anche che porterà 200 tifosi ad Auschwitz. Oggi con la maglietta di Anna Frank dicendo non all'antisemitismo. Aggiungo che la Lazio è stata l'unica società nel mondo che ha giocato una partita con una maglietta non racim, ha giocato una partita con la maglietta contro l'antiterrorismo, ha giocato una partita con l'immagine del Giubileo, perché noi cerchiamo di praticare i valori cristiani. Bene, la fermo su un attimo, voglio sentire Oscar Giannino, ha tempo per esprimere tutto. Oscar, senta, sui giornali ci sono due toni prevalenti oggi, richiedo una riflessione su entrambi. Il primo, coloro che si schierano con le parole dure del presidente della comunità di Segni, dicono no, non bastano i fiori, non siamo lavanderia, non bastano le gite dei giovani benvenute, dovete fare di più. Pierluigi Battista dice meno recite, più durezza di condanne penali, per esempio. Secondo filone invece, è anche questo interessante per chi non segue tutti i giorni il sistema del calcio e non è un tifoso. Faccio un esempio, l'articolo che c'è su Repubblica oggi a pagina 4, in cui c'è una tesi forte che spiega anche la sua lotta contro forme di ultras della Lazio che ci ha appena richiamato prima, perché il titolo dice tutto: l'Italia delle curve nere, cori e striscioni d'odio per minacciare i club e avvelenare gli stadi. Cioè, questo problema negli organi della Lega, della Federcalcio eccetera, dello scontro tra società rispetto al ricatto dei tifosi, che ha avuto addentellati anche nella storia della Juventus, che ha portato alle misure nei confronti del presidente e così via, è una minaccia che resta, si è fatto abbastanza, intendo come società tutte, questa volta unita, non solo il caso della Lazio. Che ci dice? Io dico, per quello che mi riguarda, sicuramente non mi appartiene, perché non ho rapporti di consociativismo né di discussione né di condivisione, tant'è qualcuno ha detto c'è stata una riconciliazione con la curva. No, io non mi sono riconciliato con nessuno, sono rimasto sulle mie posizioni, che sono posizioni di rispetto delle regole, e è la curva che in questo momento ha assunto una posizione diversa, cercando di assumere chiaramente un atteggiamento sportivo nel rispetto delle regole, e non certo prevaricando quelle che sono le regole. Presidente, Presidente Lotito, è più facile farci gli accordi, sì, con le curve e non avere problemi che viceversa subirne le conseguenze. Qui il problema però voglio fare una domanda, perché è cruciale, no? Io sono un abbonato, fra l'altro, della Roma, ma le riconosco questa battaglia. Per un anno quasi i tifosi della Lazio non sono andati in curva per protesta contro il provvedimento dei tornelli e del canalino che divideva quella curva, contro le videocamere che oggi hanno fatto identificare i tifosi responsabili di questo gesto. Ma io le devo fare una domanda, perché io so che il suo spirito era quello di dividere i violenti dagli altri, dalle famiglie, dagli abbonati, ma oggi rifarebbe il gesto che ha innescato questa vicenda, cioè concedere a un euro agli abbonati i biglietti della curva sud? Scusi, date un'interpretazione sbagliata, mi perdoni. Lei mi dica. Adesso le dico perché. Sì. Qui non c'è la colpa della Lazio perché ha agitato la norma, qui non c'è stato nessun aggiramento della norma. Qui c'è un problema pratico operativo. Secondo lei è giusto che su 12.000 persone, per 100 persone, diciamo 100 che invece erano molto di meno, 100 persone si chiude la curva e lei che ha pagato l'abbonamento non possa andare allo stadio? Magari lei che ha fatto i sacrifici, è rinunciato a mangiare, a comprare un paio di scarpe al proprio figlio, eccetera. È giusto? Io dico non è giusto. Allora bisognerebbe chiudere i comparti dove accadono le cose. Le responsabilità sono dirette delle persone. Non si può criminalizzare tutta la comunità. Guardi, noi che cosa abbiamo detto? Sì. Scusi, io le ho detto che sono d'accordo su questo punto, però il problema, quindi lei lo rifarebbe? Le sto dicendo, non era una scapolaggio per far entrare, era una battaglia, abbiamo detto, chi è contro il razzismo si sceglie di andare in curva sud perché rappresenta con la propria presenza una battaglia contro il razzismo. Io davo la facoltà a questi, per cercare tutti. Quindi non ci sono altre persone. Lei adesso vediamo chi sono queste persone. Io ho chiesto alle forze dell'ordine di andare a verificare chi è il responsabile effettivo di questa azione. Stanno alle telecamere, vedere chi l'ha stampata. Perché qui non si può creare realizzare, perché 10 persone, addirittura di età, anche adolescenti, che non sanno neanche quello che fanno, responsabilizzare una società, una comunità di centinaia e centinaia di migliaia di persone. Allora, è vergognoso. Lo rifarebbe? Lo rifarebbe se ci fosse un altro provvedimento? Ma la mia è stata una battaglia di... Quindi sì. Lo rifarebbe perché è stata una battaglia, torna a ripetere, contro il razzismo. Bene. Ma non è stata una battaglia per mettere a contentare la curva. Voi sbagliate, ma io le ho detto che sono d'accordo con lei. Sentiamo Giannino. Io ho iniziato dicendo che in questo caso, siccome questi tifosi ce l'hanno con lei, con la società, io penso che non dovrebbe essere applicata la responsabilità oggettiva. So che è un parere di minoranza, ma sono d'accordo con lei. Non si arrabbi con me, Giannino. È previsto ancora, ripeto, viste le parole ieri del presidente della comunità ebraica di Roma, qualche altro gesto? Non è una critica a quello che avete fatto. Promozione nelle scuole nella fase della prevenzione, l'educazione, le cose, il rispetto delle regole che vengono predicate in tutta la testimonianza dei giocatori. Si ricordi le frasi che ho detto? Io volevo un calcio didascalico e moralizzato, l'ho detto 13 anni fa. Volevo che i giocatori venissero all'alzo solo se avevano tre parametri, non solo le potenziali caratteristiche, ma la moralità. Tant'è vero, se vede che i giocatori all'alzo hanno un certo comportamento, hanno un certo tecniche, sono persone che vanno nelle scuole, negli ospedali, nei centri anziani per testimoniare la loro presenza. Il calcio, perché succede questo negli stati? Perché gli stati rappresentano la cassa di risonanza, avendo un grande potere mediatico e una grande capacità di coinvolgere un giro di persone. Il calcio, tutti vanno lì a creare problemi. Noi lo dobbiamo invertire, dobbiamo usare nel senso positivo, trasformare questa cassa mediatica in termini costruttivi, cercando di lanciare e di propugnare quelli che sono i valori odetti dello sport, che sono il superamento di steccati di grazia sociale, il contro la discriminazione, l'aspetto del merito, tutta una serie, lo spirito di sacrificio, tutta una serie di valori che sono la base fondante della società civile. Oggi se queste cose sono tutte dimenticate, anche per una carenza effettiva della società, i giovani non sono più educati a nulla. Io dico, penso che quello dei 13 anni non ha mai letto il libro di Gianni Franca, ma perché una volta noi nella fase adolescenziale veniva indicata alcune letture, c'era l'educazione civica, c'era il ruolo degli oratori che educavano chiaramente a una crescita anche interiore e spirituale, c'era il ruolo della scuola che agiva sinergicamente con la famiglia. Oggi con gli stessi partiti che comunque di educare al di là delle ideologie su certi rispetto ad alcune regole, oggi queste cose non ci sono più. I giovani hanno solo un aspetto fenomenico, quello che diceva Gante, di apparire fino e non aspetto rumenico della del superstrato. Presidente Lotito, le chiedo una cosa, perché abbiamo letto, le ha citate anche lei, le cronache. Io leggo sul Corriere dello Sport che due di loro sono minorenni, però a prescindere dall'età io le chiedo, come lei dice, porto i tifosi della Lazio che sono civili, la maggioranza non hanno niente di razzista e violento, ad Auschwitz per ricordare, e lei dice li porto fisicamente io, lei se la sente di dire se la sente di dire che quando verranno accertate le responsabilità di questi che per lei sono indegni di essere tifosi della Lazio? Questi responsabili, quando saranno accertati la loro responsabilità, cioè quelli che l'hanno fatto, lei si sente di dire che sono indegni di essere tifosi della Lazio? Ma assolutamente sì. Ma scusi, ma la Lazio predica altri valori. Anzi, le posso dire una cosa per farvi dimostrare quello che sto dicendo in forma tangibile. La Lazio è stata la prima società dal tempo del fascismo, voglio dire, quando c'era il fascismo, che impiegava giocatori di Veroli, giocatori subito dopo del dopoguerra, giocatori degli ebrei. Io sono stato il primo in Italia a ingaggiare un giocatore Golasa, che poi, adesso le racconto questo, è stato ingaggiato, è stato destinato, l'ho mandato in Israele in permesso, non è più rientrato, non l'hanno fatto rientrare. Quindi lo voglio dire, ci sono delle cose che sono tangibili, quindi quello che abbiamo fatto noi, che facciamo, è tangibile, non è una Oscar. Cosa... Benissimo, mi piace la sua foga, la sua passione, ma li porterà proprio lei? Li porterà fisicamente lei, sul torpedone con lei? Certo, io sono il capo della comunità, io ho lanciato questa idea, per quale motivo? Perché mi sono reso conto che alcuni dei ragazzi, di età chiaramente non portano quelli di 30 anni, 40 anni, perché quelli se hanno fatto delle scelte l'hanno fatto in modo convinto, non hanno la consapevolezza di quello che fanno. Chiaro, quindi lei sul torpedone a fare da guida sul campo di Osvieci? Bene, significa. Oscar. Questo è il problema. Va bene, e auguriamoci che tutto. Oggi giocheremo con la maglia proprio contro ogni forma, no all'antisemitismo, con la maglia della cosa. E quindi questo è il primo problema. Noi non abbiamo fatto un gesto formale, alla comunità, io vorrei dirgli, l'ho detto già di segni, il mio non è un gesto formale, è un gesto sentito, fatto col cuore, chiarissimo, in rappresentanza di una comunità, con la presenza delle persone che rappresentano. Bene, Presidente, speriamo che questa passione provochi la fine di questi episodi, non dipende da lei, però insomma non aiutano a far capire il calcio, chi è più freddo verso il calcio, non lo segue con questa passione. Credo che ci sia bisogno di tutto questo, Luca, non so se sei d'accordo, però... Sicuramente sì, grazie al presidente Lotito, lo risentiremo presto anche per raccontare questa sua esperienza. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Mattino. Un fiume in piena ai cani e ai gatti è entrato. Si può dire una cosa, Lotito, certo, ricordo, ecco, il numero 800 24 00 24, se volete chiamare. E Oscar, a te la parola. No, solo una cosa, perché al di là, voglio dire, di viverla con la passione anche dei tifosi che seguono le passioni di calcio e così via, se uno fa un passo indietro come osservatore mi sembra anche giusto. Per esempio, a me l'articolo di Francesco Merlo oggi su Repubblica, pagina 3, mi è piaciuto perché porta lo scetticismo di chi non è tifoso e quindi guarda il mondo del calcio facendo la giusta tara rispetto a questo mondo di concitazione che ogni cosa che riguarda il calcio in Italia va sopra le righe. Spesso è comprensibile, è un fenomeno di massa, non sto criticando, non faccio l'intellettualino pensoso, però dico, il taglio con cui Francesco Merlo pone una questione un po' diversa, cioè dice, se uno va a Roma scopre, tocca con mano, e questo è più faticoso ammetterlo, come sempre in Italia, perché si sa, noi viviamo nella retorica che non siamo razzisti, noi siamo meglio degli altri, cioè, invece non è vero, perché il piccolo termometro, cioè se il tredicenne non sa chi è Anna Frank, se in generale si usa l'accusa di essere sporco ebreo da una parte contro l'altra, e fa bene in questo Francesco Merlo a dire, se uno va a vedere nelle curve italiane, quante ne trova di cose così, è il segno che in questo paese in realtà si è sdoganato qualcosa che non se n'era mai andato in una parte della testa e della pancia di tanti italiani. Ecco, questa è una cosa che a me... Però posso dirti che proprio per la stessa motivazione, sì, ho un'idea opposta, ben venga. Cioè, perché se ben venga? Qualcuno conoscerà Anna Frank oggi, se qualcuno leggerà la lettera, in quel senso, capisco. Vedo il mondo colorarsi di guerra, di miseria, di sventura, ma tengo vivo i miei ideali. Se uno arriverà a questo messaggio, ben venga, perché il calcio è il luogo dei simboli, e il fatto che si sia messa un'istigazione all'olocausto, sia pure con la forma di uno sfregio a una bambina, questo è imperdonabile. È imperdonabile, però, ripeto, quello che mi preoccupa di più è che ci preoccupiamo della manifestazione con un vasto dispiego di ipocrisia. La cerimonia ieri alla comunità era ipocrita, insomma, una roba. Se uno legge l'articolo di Merlo, adesso non voglio leggerlo, ma insomma, capisce anche che cosa intendo nel dire che era bastamente ipocrita. Era la ricerca di una cosa per far vedere che. Ma il punto è che queste cose capitano con troppa frequenza nel nostro paese. In Europa sta avvenendo quello che sta avvenendo. Il razzismo, la xenofobia sono sdoganati, questo è il punto di fondo. E quindi viva viva che Lotito si porti i ragazzini ad Auschwitz, però la durezza ci vuole, la durezza ci vuole, i fiori non bastano. Ma tu hai idea che questo viaggio diventerà un evento mediatico e quindi qualcuno scoprirà che ad Auschwitz, nel cuore dell'Europa, sono morti milioni di ebrei per l'olocausto, e qualcuno scoprirà che sia così, visto campo tremendo di morte che è Birkenau, una visto folle che alcuni campo ieri a Roma di hanno creduto che Anna distrutti. Frank sia stata presa nel sì, questo l'hai letto nel pezzo di Merlo, nel ghetto di Roma. Questo sì, dà l'idea di che cosa non trasmettiamo evidentemente ai nostri figli. Allora andate in Olanda, andate a visitare la casa di Anna Frank, sarà un'emozione incredibile perché è un luogo raccolto, semplice, uno dei musei più semplici e commoventi che io abbia visto al mondo. Kumar da Ferrara. Buongiorno, prego. Ringrazio che vi seguo sempre, ma io volevo solo anche un po' rispondere al signor Lotito, in quanto le faccende che si sussistono alla Lazio sono cose che esistono da quando lui è come presidente, perché Come lei è senegalese, lo spieghiamo, se no non si capisce la sua valutazione. Mi chiamo non Kumar, ma Umar Gien. Ah, Umar, scusi. Umar Gien da Ferrara. Nel senso che l'anno scorso ci ricordiamo tutti che il capitano oggi della Lazio, che è Lulic, insultava in diretta TV Rudiger. Sì, che è anche nero, poi che anche olandese. Sì, era un difensore di colore della Roma e gli disse che era un venditore di calzini. Però fu grandiosa la risposta di Rudiger, che disse che lui era orgoglioso di essere un venditore di calzini di fronte a questo insulto razzista. Però sicuramente, Omar, grazie per questa segnalazione e ripeto, siamo qui per raccontare tutto, per usare questa occasione per rompere i tabù, gli stilemi, gli insulti, l'ingiuria. Stefano da Roma. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, per quello che riguarda il dato che voi avete pubblicizzato sulla dato Istat sul miglioramento e l'aumento della vita media in Italia, a noi di Cittadinanza Attiva risulta che invece la vita media sia passata quasi di un anno. E comunque, dando per... No, ma non è che a noi di Cittadinanza Attiva, scusi, cosa vuol dire? Cioè, avete un osservatorio demografico diverso dall'Istat? C'è un report. C'è un report che nel 2015, lo diciamo perché su questo non è possibile, cioè a Radio 24 non si ammette che ognuno arrivi e dica i numeri sono miei, nel 2015 i dati ufficiali sono dell'Istat, non ci sono dati demografici diversi da quelli rilevati dal sistema di contabilità statistica pubblica nazionale in un paese civile. Come vedrà nei giornali di oggi, troverà la spiegazione del fatto che gli indicatori che hanno nel 2015 fatto rilevare dal sistema pubblico nazionale statistico un rallentamento del miglioramento della vita media, cioè del fatto che si allunga di anno in anno nel nostro paese, sono stati recuperati nel 2016. Quindi questo è quello che dice Istat, questa è l'unica cosa che conta e quindi non mettiamo in dubbio chi ascolta questa cosa, per favore, punto. Sì, ovviamente Stefano, il problema non è solo quello. Oggi io parlavo di questo dato un po' paradossale, cioè la Corte Costituzionale riconosce che devono essere restituiti dei soldi presi dalle pensioni e che sostanzialmente di questa restituzione è stato riconosciuto ai pensionati un decimo. Questo non riguarda l'età media, riguarda la giustizia. Se c'è una sentenza della Corte deve essere applicata, punto. Non è che uno dice sì però non ci sono, sì però ci costa 10 miliardi, metteteli in conto, perché se c'è una legge in questo paese deve essere riconosciuta e rispettata. Alberto da Perugia. Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Senta, io ieri ho sentito che la Corte Europea in Europa ieri a maggioranza, su una proposta della consigliera del 5 Stelle Agea, hanno votato a favore per il reddito di cittadinanza. Sì. Ne sapete niente? Sì, l'ho sentito da nessun giornale, nessuna notizia. È una mozione di indirizzo, ovviamente, non vuol dire che automaticamente tutti gli stati nazione adotteranno una legge per il reddito minimo, però speriamo che spesso questo reddito di cittadinanza in qualche forma riesca a essere, come dire, recepito come principio e come prassi dai diversi stati nazione. Stiamo parlando di un intero ridisegno che deve essere fatto di tutta la normativa previdenziale, assistenziale e redditizia. Oscar. Boom. Se mi consenti, la così. Corte Europea, la Corte non approva mozioni. Un po' di precisione, abbiate cosa? Pazienza. La Corte Europea ha approvato una mozione. Chiede, la Corte. Il Parlamento Europeo. Ah, ecco, no, il nostro ascoltatore chiedeva, che noi eravamo disinformati, che la Corte Europea ha approvato una mozione. Vabbè, ha fatto un lapsus, perché va parlava. Va bene, però. Mettiamoli la penna rossa. No, mettiamo la penna rossa sulla precisione delle cose, invece, perché è anche il nostro mestiere. Detto questo, per reddito di cittadinanza, mi dispiace. piace, sono meno semplificatore, si intende una tale coacervo di misure diverse che in quanto tale non dico sì a prescindere. Fatemi capire che cos'è il reddito di cittadinanza, è una cosa, se è un assegno universale, come in realtà la definizione generale del reddito di cittadinanza ha gli assegni universali in cambio di nulla, io resto contrario, perché finiscono a sostegno di chi non è identificato bene nelle condizioni di povertà assoluta e relativa, e comunque devono essere in cambio di impegni attivi, di occupabilità e di formazione. Cosa diversa è il reddito minimo, un reddito minimo vitale a fronte del quale si possono pensare diverse strade, da integrazioni monetarie a sostegni concreti. Quindi sono due cose diverse, per così dire, quindi detta così vuol dire poco e sai niente. Sai che dire. Io sono ancora più drastico, cioè in questa riprogettazione dei cardini del nostro sistema credo che la priorità sia riconoscere a chi è flessibile e chi oscilla da un lavoro all'altro, alla generazione Tarzan, contributi previdenziali perché possono, anche di fronte a redditi discontinui, maturare una pensione un giorno. Pensa pubblicità. Mattino. Comunque abbiamo una responsabile economica del Movimento 5 Stelle che è venuta qui oggi proprio per discutere questo. Barbara Lezzi, buongiorno. Allora ci chiamava un ascoltatore e dice: ma perché non parlate del reddito di cittadinanza, della mozione? Ecco, qui siamo qui per parlarne apposta. Buongiorno, prego. Buongiorno. Sì, no, diceva un ascoltatore, non so se lo ha sentito, prima ci diceva: ma perché non dite che una proposta dei 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, viene discussa e approvata, sia pure con un indirizzo dal Parlamento europeo? Bene, discutiamolo. Voi siete a favore di un reddito di cittadinanza di che tipo? Beh, noi il nostro reddito di cittadinanza inserisce nella nostra proposta anche delle politiche attive, ed in ogni caso è un nuovo welfare, un nuovo stato sociale che guarda insomma un po' al futuro, perché il futuro va verso la tecnologia, l'innovazione, e ci saranno dei posti di lavoro che purtroppo verranno persi, ma altri se ne andranno a creare. C'è questo però ponte, cioè il punto di passaggio, il ponte deve essere il reddito di cittadinanza, in modo tale che il cittadino non rimanga mai senza reddito e comunque non rimanga mai anche fuori dalla formazione professionale per poter essere reinseriti poi nel mondo del lavoro. E questo è il nostro reddito di cittadinanza, che comunque ha preso spunto da altri provvedimenti che sono già in vigore nel resto d'Europa. E, contrariamente a quanto si dice, insomma, c'è anche in Germania, insomma, tantissimi altri paesi, non ce l'abbiamo soltanto noi e la Grecia. E quello che è stato emanato da questo governo è di nuovo un pannicello caldo, ma perché? Perché prima di tutto è a tempo, dura solo per qualche mese, non garantisce nulla, non è tra l'altro basato su degli indicatori certi come il nostro, nel senso che la cifra che noi abbiamo indicato, che sono 780 euro, proviene dall'Eurostat, che è una cifra che è sotto la quale insomma si è poveri. Senza dubbio. Oscar, vuoi aggiungere qualcosa? Volevo fare solo una domanda per dare chi ascolta l'ordine di grandezza. È una misura che non è serio, lo dico subito a beneficio anche della nostra ospite, deliquidare né criticare in 30 secondi, come ovviamente i tempi della radio ci obbligano a fare. Però dica qualcosa per favore. La stima del costo della vostra misura, come si è evoluta nel tempo, diciamo va dai 15-16 fino, alcuni dicono a 20 miliardi, ma insomma è una stima molto importante, no? Allora indichiamo, siccome io sono un po' critico su alcune delle coperture che indicate, però gli ascoltatori magari non le conoscono, le vuole ripetere agli ascoltatori, come non i singoli ordini di grandezza per fare 16 miliardi perché non c'è tempo, ma almeno alcune delle poste dalle quali ricavereste le misure. Sì, è chiarissimo il discorso. Guardi, per quanto riguarda le coperture, io vorrei sottolineare un altro aspetto. Le coperture che noi abbiamo indicato, le abbiamo indicate perché ci dobbiamo inserire nella programmazione, quindi nelle leggi di bilancio, prima stabilità e sì, prima ancora manovre finanziarie, insomma fatte da altri governi. Quindi noi abbiamo dovuto reperire dei fondi e quelli insomma che potevamo un po' prendere. Nel momento in cui invece si programma una legge di bilancio dall'inizio, è chiaro che anche quelle coperture possono essere diverse. Ecco, ma per esempio, cioè, facciamo capire a chi ascolta. Sì. Prego. Dico, per esempio... Da dove li prende, chiede Oscar, molto banalmente. Ma guardi, molto banalmente, ne sono indicate diverse, sono anche una riorganizzazione di altre risorse che sono già utilizzate, non lo so, tipo dalla carta acquisti, poi c'è la spending review ad esempio, c'è un taglio agli sprechi vero, sincero e coraggioso per esempio, e ce ne sono tante altre, guardi, sono indicate, sono anche delle poste anche molto piccole, si va anche dai vitalizi, alla diminuzione degli assegni per i parlamentari, però ce ne sono anche altre. Beh, però non si può coprire un reddito di tipo universalistico con queste poste. Quello che è certo è che comunque quando noi l'abbiamo presentato in legge di bilancio, il vaglio dell'ufficio tecnico ha detto che andavano bene, la ragioneria dello Stato ha detto che potevano andare bene, che era una scelta strettamente politica. A noi questo basta. Poi va per bene. Il resto sono tutte decisioni politiche. Tecnicamente sta bene, ok. E quando si va a riorganizzare tutte le spese, guardi, io vi faccio un esempio. Ad esempio la decontribuzione che è stata fatta agganciata al Jobs Act, perché ricordiamolo anche questo, cioè la decontribuzione con gli sgravi non erano nel Jobs Act, ma erano in una legge di bilancio, era una manovra spot anche quella. Però quelli ci sono costati oltre 20 miliardi e dovevano garantire poi un lavoro stabile ai disoccupati, cosa che purtroppo non è stata. Noi abbiamo speso oltre 20 miliardi per ritornare poi ad avere nuovi contratti precari e ad avere poi, rispetto all'inizio della crisi, è vero, lo stesso numero di lavoratori, ma 1 miliardo di monte ore lavorate in meno. Per cui quando si fanno delle scelte, in quel caso Renzi fece quella scelta secondo noi terribile, ma perché poi per me particolarmente, perché è andato ad abrogare una legge che già c'era ed era strutturale, che sgravava sia i contributi INPS che INAIL con dei paletti più alti e che quindi non costava così tanto. Noi abbiamo chiesto infatti di migliorare quella, ma di lasciarla nelle politiche invariate in modo tale da non dover ridiscutere sempre, cosa che adesso si deve fare. Purtroppo ormai gli sgravi sono bassissimi e quella legge che era strutturale non l'abbiamo più. Bene. È stata una scelta politica, insomma, allora, noi le faremmo di diverse. Grazie a Barbara Lezzi, la salutiamo. Oscar, arrivano un po' di messaggi, compreso qualcuno demente che voglio leggere. Solo voi due, cioè io e te, potete credere allo sterminio degli ebrei e alle statistiche. Allora, io devo dirle che le consiglio la lettura, ma non di Anna Frank, del diario di un comandante Auschwitz di Rudolf Voss, memoriale scritto da colui che aveva comandato Auschwitz e che ha inventato lo sterminio a mezzo del gas. Le consiglio di leggere i diari di Spandau, le memorie del Terzo Reich, dell'architetto del Führer. Non sono invenzioni di qualche fantasma, sono le prove della storia che ogni tanto dovreste assaggiare. Mio Dio, e aggiungo mio Dio, pur essendo abbastanza agnostico, aggiungo mio Dio. Comunque, è vero che nella pancia del paese torna con una certa protervia molto pericolosa a esprimersi voce di questo tipo. Ma basta vedere i social, basta vedere i social. Qualcuno ci dice, ma perché non avete fatto tutte queste scene quando il Livorno ha fatto gli striscioni sulle foibe? Noi parliamo sempre, la storia ci ha insegnato, la foibe non è un reato, è una vergogna, esattamente come l'adesivo. Comunque Franca, non esiste la graduatoria delle forme diverse di razzismo, fanno tutte schifo, scusate. Fanno tutte schifo, bravo. Tutte le istigazioni dell'odio fanno schifo e noi, cani e gatti, con i nostri limiti e i nostri difetti, ci troviamo domani. Viva la pensione più tardi!